la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Benvenuti alla prima volta, l'ospite di oggi è Lorenzo Bonetti, molti di voi l'hanno visto in azione sui campi di volley, molti conoscono anche la sua storia, una storia che è diventata testimonianza di tantissime cose, coraggio, speranza, fiducia nella ricerca scientifica, però prima di avventurarci appunto in questa storia è bene partire dall'inizio. Allora Lorenzo, lei dove è nato e com'è la sua famiglia? Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Bonetti Lorenzo, sono nato a Trescore Balneario 28 anni fa ormai, un paesino in provincia di Bergamo, e appunto in questo momento io sono un po' in giro per l'Italia a giocare, e la mia famiglia è ancora ben radicata nel paese dove sono nato, quindi a Trescore Balneario. Siamo una famiglia molto, molto numerosa, siamo 5 figli, quindi siamo molto legati uno con l'altro, siamo cresciuti tutti insieme, abbiamo poca distanza di età, quindi siamo una famiglia molto legata, a cui appunto do un ringraziamento speciale per tutto quello che hanno fatto per me nel periodo difficile e non, e quindi che dire, mi ritengo una persona molto fortunata. E nella sua famiglia lo sport come è stato visto? È sempre stato importante? Vi hanno aiutato ad entrare in contatto con lo sport o ognuno di voi si è mosso liberamente? No, nella mia famiglia lo sport diciamo che è un po' l'anima gemella che ci racchiude, nel senso che tutti noi pratichiamo sport, abbiamo sempre praticato sport, mia madre giocava in Serie A di pallavolo negli anni 80, e quindi diciamo che siamo cresciuti con la palla in mano. Tutti i miei fratelli praticano sport, hanno praticato tutti la pallavolo come la pratico io. Io ho avuto la fortuna di arrivare nella massima serie, e quindi diciamo che sono riuscito un po' a farlo diventare poi il mio lavoro, e quindi questo è stata per me una grandissima soddisfazione. Fortuna e anche bravura, perché lei ha una storia particolare, nel senso che lei non aveva scelto come primo sport la pallavolo inizialmente, giocava a calcio, giocava anche molto bene a calcio da quello che ho letto. Beh sì, diciamo che come tutti i ragazzi più giovani, sì, la maggior parte inizialmente inizia a praticare il calcio. Io sono riuscito a militare nei settori giovanili un po' più blasonati della nostra zona, e giocando nell'Atalanta e poi nell'Albino Leffe per tanti anni, e speravo e pensavo di arrivare alla massima serie, come era il sogno di tutti, penso che sia il sogno un po' di quasi tutti i bambini. Poi tutto un tratto, intorno ai 17 anni e qualche mese, ho deciso di fare questo cambiamento, di iniziare una nuova avventura sportiva, visto le mie capacità, pur non avendolo mai praticato, vedevo che mi veniva tutto facile, e quindi ho deciso di cambiare sport e di passare alla pallavolo, e sono fermamente convinto che è stata poi la scelta più giusta, perché sono riuscito a togliermi delle grandissime soddisfazioni che col calcio magari non sarei mai riuscito a togliermi. E cos'è che le piace di più proprio del gioco della pallavolo? Ma sicuramente che è uno sport di squadra, e ti dà, sia in campo che fuori dal campo, ti dà la possibilità di conoscere, di avere rapporti interpersonali con altra gente, conoscere un sacco di persone, conoscere un sacco di amici, farti rispettare per quello che sei e farti rispettare in campo. Questa, penso che lo sport di squadra dia qualcosa in più sotto questo punto di vista a livello umano. E per me la pallavolo poi è tutto, nel senso che è lo sport che amo, è lo sport che mi dà gioia quando la pratico, che mi ha dato la forza di tornare più forte di prima in campo quando appunto mi sono ammalato, e quindi devo dare veramente un ringraziamento speciale a questo sport e a tutte le persone che ne fanno parte, perché mi hanno aiutato davvero tanto. Ecco, lei adesso ha introdotto proprio questo argomento. Se la sente di raccontarci com'è andata e che cosa è successo, insomma, perché le hanno diagnosticato un tumore. Oggi lei sta bene, è stato curato, però se la sente di raccontarci il momento in cui ha scoperto. Sì, nel 2012, era il 13 luglio del 2012, io stavo tutto sommato bene, ma avevo dei piccoli dolori alla schiena. Io pensavo fossero classici dolori di routine di uno sportivo, classico mal di schiena. Poi invece sono andato a fare degli esami di accertamento, una risonanza magnetica, e da lì mi hanno appunto diagnosticato un possibile linfoma. E poi col passare del tempo e degli esami che appunto i medici mi facevano, mi hanno diagnosticato infine un tumore al sistema linfatico, un linfoma non Hodgkin. Ovviamente inizialmente l'ho presa un po' così, perché sentirsi dire certe parole di punto in bianco quando comunque fisicamente tu ti senti bene non è stato facile, però ho cercato subito di dare una svolta e di darmi degli obiettivi ben precisi, che era quello di abbatterlo, di curarlo e di vincere questa mia battaglia più grande. E subito, fin da subito, chiesi al dottore di dirmi un po' le possibilità di guarigione, quanto tempo ci volesse per tornare sui campi da gioco, quanto tempo, a cosa appunto in quel momento sarei andato incontro. E il dottore mi disse subito che in 5-6 mesi io sarei potuto tornare in campo se avessi preso nel modo giusto tutte queste cure. E quindi quello è stato sin da subito il mio obiettivo, e non mi sono più tirato indietro, come vedevo sempre una luce in fondo al tunnel, che erano quei 5-6 mesi di cure molto difficili, però diciamo che sono riuscito a sopportare nel miglior modo possibile, e non mi sono mai fatto mancare nulla, non mi sono mai abbattuto, e ho cercato di vivere ogni giorno la vita come l'avevo vissuta sino a quel giorno là, senza sentirmi tra virgolette ammalato. Sapevo di esserlo, ma non dentro di me sapevo che avevo questa possibilità di guarigione, e fortunatamente, grazie alle medicine, grazie secondo me alla positività che ho dato a questa cosa, sono riuscito a sorpassarlo nel miglior modo possibile. Se lei voleva continuare a giocare, lei voleva ricominciare a giocare, ecco, quando è avvenuto? Si ricorda la prima volta che è tornato in campo dopo la malattia? Beh sì, è stata penso una delle emozioni più grandi che una persona possa avere nella propria vita, quando appunto finite quasi tutte le cure, perché io ho ricominciato a giocare a cure non ultimate, nel senso io avevo finito le chimioterapie ma stavo ancora facendo le radioterapie, e da lì io però mi ero detto che volevo tornare a giocare, vedevo che le cure erano poco invasive, quindi la mia prima volta in campo è stata un'emozione unica, il palazzetto strapieno, la mia famiglia e tutte le persone che mi volevano bene erano a sostenermi sugli spalti, e quando annunciarono il mio nome nell'ingresso in campo, diciamo che penso che un'emozione del genere sarà difficile da ripetere, nel senso che non sapevo bene a cosa pensare, vedevo un po' tutto sfocato, è stata veramente un'emozione stupenda, e lì ho capito che ce l'avevo fatta e che tutte quelle persone erano venute lì per sostenere il mio rientro, ma soprattutto la mia vittoria più grande, che è stata quella di sconfiggere appunto il tumore. E poi è arrivato anche un contratto importante. Sì, beh, io militavo in Serie A quando mi hanno diagnosticato appunto la malattia. Da là io appunto non ho più firmato un contratto, perché stavo per firmare un contratto, ma la malattia mi ha fermato, e appunto l'obiettivo era quello di sconfiggere prima quella e poi pensare comunque di tornare sui campi. Il 13 giugno dell'anno successivo sono stato contattato da una squadra di Serie A, di Vero Volley Monza, e mi hanno proposto appunto il mio nuovo ritorno nella categoria, nelle migliori categorie, e questo è stato per me veramente una soddisfazione immensa, che neanche a un anno dalla mia malattia ero riuscito a tornare non solo in campo, ma anche in una categoria così importante, che era quello che volevo, era quello di tornare a giocare con i grandi campioni e far parte di questo bellissimo mondo, e alla fine ce l'ho fatta. E da lì poi è stato veramente tutto in discesa, nel senso che tutto quello che sono riuscito a fare l'ho fatto perché sicuramente la forza che mi ha dato la malattia è stata veramente tanta. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo. La prima volta. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. La prima volta. Ben ritrovati alla prima volta, l'ospite di oggi è Lorenzo Bonetti, pallavolista, classe 1988, bergamasco, una vita piena di sport. Ecco, quanto è servito essere sportivi nell'affrontare la malattia? Ma sicuramente moltissimo. Nello sport l'obiettivo principale è sempre quello di vincere, ovviamente, come penso che tutti la pensano, preferiscono vincere che perdere, quindi io, essendo sin da piccolo abituato, penso, a ragionare in questo modo, il mio obiettivo primario quando mi hanno diagnosticato la malattia è stato quello. Io infatti non ho mai chiesto se potessi perdere, ma ho chiesto quanto ci vuole per vincere questa battaglia. Sono stato molto fortunato, questo me ne do atto assolutamente, però diciamo che la mia mentalità, secondo me, è stata una delle medicine più importanti che potessi avere in quel momento, e grazie a Dio sono riuscito a vincere la partita più difficile, penso, della mia vita. Lei ha detto anche durante questa intervista che una delle cose che l'hanno anche tenuta su, anche di morale, sono state le persone che hanno dimostrato quanto l'amassero. E poi ha dato anche dei consigli, no, alle persone che magari si trovano a vivere questa situazione, cioè non chiudetevi, non state da soli, uscite, andate, condividete. Sì, assolutamente, io penso che la malattia sia purtroppo un percorso negativo e anche positivo della vita, purtroppo c'è e quindi non ci possiamo fare nulla. Io ho vissuto la malattia in questo modo, nel senso, ho sempre cercato di fare la vita che facevo prima, e le persone che mi stavano vicino mi hanno sempre fatto sentire tale, non mi hanno mai fatto sentire ammalato, nel senso, come mi trattavano fino al giorno prima che mi scoprissero tutto, mi hanno trattato tutti i giorni, anche durante le cure, durante i momenti difficili, e questo, a mio parere, mi ha dato veramente la forza in più, perché non lo so, forse nel mio subconscio non mi sentivo malato, come ti dicevo prima. Io cercavo la mia birretta con gli amici, me la sono sempre fatta, uscivo, andavo, giravo, andavo a fare qualche allenamento, ovviamente in maniera molto più ridotta, in maniera molto più tranquilla, però non volevo sentirmi, tra virgolette, una persona diversa solo ed esclusivamente perché avevo questo problema, quando fino al giorno prima facevo tutto. E da lì io mi sono sempre tirato sulle maniche, ho sempre cercato, anche magari in maniera un po' più difficoltosa, però ho sempre cercato di fare tutto. E questo sia il consiglio che io do tutti i giorni alle persone che mi stanno vicino, alle persone che stanno bene, alle persone che stanno male, quando mi scrivono, mi chiamano, ci sentiamo. Io questo è quello che cerco sempre di trasmettere, la positività nel pensiero. Purtroppo le malattie vanno sconfitte, o per fortuna vanno sconfitte, e quindi questo, secondo me, è il miglior modo possibile per sconfiggerle. Io ho, fortunatamente, come dicevo prima, ce l'ho fatta, quindi ovviamente il mio pensiero rimane questo. Poi c'è questa cosa che, tra l'altro, anche adesso durante l'intervista lei parla di queste date, e le date hanno sempre questo numero, no? Il 13 che ritorna. Io ho letto anche che in altre interviste ne ha già parlato, è diventato un po' una sorta di amuleto. È vero anche che questo numero sancisce anche i giorni più duri, diciamo, che nel bene e nel male è il suo numero. Guarda, io ti dico la verità, io lo reputo solo ed esclusivamente un giorno fortunato, nel senso che questo numero 13, in questo giorno, in questo numero, mi sono successe sempre delle cose, a mio parere, belle, anche perché quando mi hanno diagnosticato la malattia, io ad oggi la reputo una bellissima giornata, perché se non me l'avessero trovata, magari in questo momento non potrei essere qui a parlare. Quindi io la reputo veramente un giorno, forse il giorno più fortunato della mia vita. E poi da lì il numero 13 ha sempre avuto, fortunatamente per me, delle grandissime risposte positive, nel senso che il 13 settembre mi hanno detto che appunto la malattia stava regredendo bene, il 13 di dicembre ho ricominciato a giocare e così via. Il numero 13 mi ha sempre dato grande soddisfazione, così ho deciso l'anno scorso di tatuarmelo sul braccio, perché questo penso che sia veramente il mio numero portafortuna. E oggi lei è diventato anche testimonial della campagna Gold for Kids della Fondazione Umberto Veronesi. Allora, che cos'è questa campagna e perché ha deciso di diventarne testimonial? Allora, io ovviamente cerco di portare la mia testimonianza ovunque più possibile, perché posso dare un piccolo pensiero, una piccola idea di positività alle persone che in questo momento stanno purtroppo male, stanno attraversando un brutto periodo. Con la mia testimonianza cerco di dare qualcosa in più, o quel piccolo spiraglio che magari non vedono. E con Fondazione Veronesi e con Goal for Kids abbiamo insieme deciso di fare questo, perché io penso che poi tra l'altro febbraio è il mese dell'oncologia pediatrica, quindi per i bambini, io penso che i bambini siano tutto, le persone più piccole. Io ricordo benissimo una mia esperienza personale in ospedale con un bambino piccolo, e quando appunto io lo vidi che piangeva, stava male sulla barella, e perché dovevano fargli un'iniezione, io mi sono sentito talmente talmente male che da lì ho capito, mi sono detto: meno male che è venuto a me, non è venuto un altro bambino. Io tutto sommato stavo bene, quindi vedevo che potevo tranquillamente stare bene, e quindi ho deciso di diventare testimonia per questa grandissima fondazione che cerca ogni giorno di dare qualcosa in più alle persone che stanno male. E appunto approfitto per dire: doniamo 2 euro al numero 45506 per cercare di aiutare appunto i bambini ammalati di tumore, che una piccola donazione può rendere una vita migliore appunto a tutti i bambini che in questo momento non stanno bene. La scelta di diventare testimonial di questa campagna è una delle tante avventure, comunque tante cose che hai deciso di fare, e tra queste c'è anche quella di aver messo nero su bianco questa tua esperienza. Ci racconti di più? Sì, mi ritengo una persona ulteriormente fortunata, perché l'anno scorso la Gazzetta dello Sport mi ha fatto un'intervista, e il giorno dopo mi contattò appunto uno scrittore chiedendomi se ero interessato a fare un'autobiografia sulla mia vita. Per me è stata, pensavo fosse uno scherzo, sinceramente, perché non pensavo assolutamente di fare una cosa così importante, così bella. E da lì ho deciso di scrivere un libro che è intitolato Sottorete, e uscirà il 24 marzo in tutte le librerie d'Italia, e volevo appunto ringraziare la casa editrice e lo scrittore che mi hanno dato questa bellissima opportunità, e spero che possa servire a tantissime persone e che possa piacere appunto quello che poi ho riportato nero su bianco, come hai detto te prima. La prima volta termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi rimando alla nostra pagina per riascoltare queste ed altre puntate. Andate sul sito di Radio 24, cercate La Prima Volta, oppure venite a trovarci su Facebook Radio 24 La Prima Volta. Un saluto e un abbraccio a tutti da Cristina Carpinelli. Thank you.